Ed eccoci in voce con Entropia Massima, con Rita, con Rita da a Sud. Prego Rita. Allora, ciao, sono Rita. Anche stasera, come ogni ultimo lunedì del mese, saremo ospiti in trasmissione e anche stasera parleremo di tematiche allegre e assolutamente gioviali. Stasera vi parliamo degli attivisti e dei difensori di diritti umani in generale che vengono ammazzati o che sono in pericolo di vita o che in generale vengono perseguiti in giro per il mondo. Ne parliamo ora perché quest'anno ricorre il 20° anniversario della dichiarazione ONU sui difensori dei diritti umani. Dichiarazione che in realtà ha avuto allora la sua proclamazione, che è stata nell'88, ha avuto comunque enorme riscontro a livello di opinione pubblica, ma che in realtà, secondo un bilancio che poi via via faremo nel corso della trasmissione, ha purtroppo avuto soltanto quello, nel senso non è riuscita poi nel corso del tempo a mitigare una situazione che era di crisi emergenziale e abbastanza grave, ma anzi, come vedremo, è addirittura peggiorata. Questo perché molto spesso in realtà i difensori dei diritti umani risultano essere un problema non soltanto risultano essere un problema e trovare un nemico sia da parte dei governi ai quali si oppongono, sia anche anche da parte delle imprese, delle multinazionali che provano a instaurare delle grandi o piccole opere che comunque sarebbero impattanti e avrebbero un problema per i territori che stanno difendendo. Non parliamo soltanto però di ambientalisti, parleremo anche di altre figure. Questo come premessa, insomma, della trasmissione. Parleremo del caso di Mariel Franco, l'attivista brasiliana ammazzata lo scorso 14 marzo. Parleremo del report di Frontline Defenders, che ci documenta quanti e quali attivisti sono stati ammazzati nel corso del 2017 e quali sono i casi più critici. Parleremo di una serie di attivisti storici che hanno dovuto subire persecuzioni, che sono stati ammazzati e che comunque non hanno trovato neanche da parte della politica appoggio e nonostante le cause che difendessero fossero cause comuni. Parleremo della neonata rete In Difesa Di, che è una rete che sta raccogliendo tutta una serie di attivisti, di persone che comunque sono interessate al tema e che hanno deciso di impegnarsi per prendere parola pubblicamente e fare in modo che anche dalla società civile, insomma dall'opinione pubblica, ci fosse una mobilitazione. Parleremo infine del nostro contesto, dell'Italia, di quello che accade in Italia quando si prova a difendere i territori, quando si prova a difendere, ad opporsi insomma a dei sistemi che tendono a criminalizzare gli attivisti. Parleremo sia di casi storici che tutti conosciamo, e quindi parleremo del G8, parleremo della Diaz, Bolzaneto, ma parleremo anche di nuovi modelli di criminalizzazione che sono quelli che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, con un'intervista ad un'attivista italiana, Silvia, che ha anche avuto problemi legali nel corso della sua battaglia contro un elettrodotto che avrebbe sostanzialmente creato moltissimi problemi ai terreni agricoli nei quali lei viveva. Questo come premessa. Intanto cominciamo dalla questione della dichiarazione dei diritti umani. Quello che ci preme sottolineare, che il taglio che poi daremo alla trasmissione, è esattamente questo. Cioè, molto spesso le imprese private risultano essere per i governi un'arma da utilizzare contro gli attivisti e viceversa. Cioè, molto spesso capita che ci siano degli accordi, ci siano delle pressioni da parte di lobby sui governi, sulla politica in generale, e che gli attivisti siano costretti a doversi difendere non soltanto quindi da quelli che stanno osteggiando, ma anche da chi dovrebbe tutelarli, anche dai governi, anche da chi dovrebbe in ogni caso provare a dare spazio alle proprie istanze, che spesso sono istanze che in realtà si fanno portavoce della volontà popolare. Il 9 dicembre del 98 viene dunque proclamata la dichiarazione dell'ONU in difesa dei difensori dei diritti umani. Per difensori dei diritti umani intendiamo chiunque lavori, sia come singolo, sia in comunità, all'interno di gruppi, associazioni, per proteggere i diritti umani in maniera non violenta. Quindi abbiamo in realtà un numero di persone veramente molto molto elevato, possono essere dei giornalisti, degli avvocati, degli scrittori, ma anche gli studenti, gli artisti, gli attivisti che ogni giorno più o meno vediamo e conosciamo attraverso i titoli di giornale. Possono essere membri delle ONG, tanto quanto i leader di comunità indigene. E per difensori di diritti umani intendiamo, come abbiamo detto anche poco fa, non soltanto chi si difende l'ambiente, anche se è chiaramente il taglio che noi daremo alla trasmissione per evidenti ragioni, ma chiunque si opponga a regimi dittatoriali, a regimi oppressivi, difende in generale la libertà d'espressione e combatta ogni forma di discriminazione e di abuso sui diritti umani. I difensori dei diritti umani, secondo il report di Frontline Defenders, che dopo analizzeremo più nel dettaglio, sono costantemente sotto attacco. Soltanto nel 2016 più di 1000 attivisti in tutto il mondo hanno subito delle minacce, delle ritorsioni, degli abusi fisici, delle intimidazioni o delle campagne di diffamazione pubblica, perché molto spesso anche questo è uno strumento che viene utilizzato da chi appunto osteggia gli attivisti, dipingendoli come nemici pubblici. Chi osteggia gli attivisti è una domanda molto complessa in realtà, perché come abbiamo già provato a dire, si tratta spesso delle autorità stesse alle quali loro si appellano, come si può trattare di gruppi paramilitari o di servizi segreti. Questo accade soprattutto nei sud del mondo, ma non soltanto lì. Molto spesso si tratta per esempio di sicari che ammazzano a nome di multinazionali, e in linea di massima questo tipo di crimine resta impunito, perché molto spesso c'è un fortissimo livello di collusione anche con la politica locale. Ora, questo come premessa insomma a tutta la discussione. Magari adesso Agostino ci racconta l'ultimo caso di cronaca, quello più immediato, insomma quello che viene in mente a tutti, e poi continuiamo. Buonasera. Sì, come diceva Rita, nonostante siano passati 20 anni dalla dichiarazione dell'ONU in difesa dei difensori, dei diritti dei difensori, dei diritti umani, sembra che i casi di omicidio a danni di questi non siano diminuiti, anzi in realtà si registrano dei dati sempre più preoccupanti al rispetto. Sembra infatti che siano in crescita i morti dovuti alle battaglie per i diritti e per l'ambiente. Come menzionava prima Rita, l'organizzazione Frontline Defenders, che è un'organizzazione internazionale nata per difendere i difensori dei diritti umani, secondo questa organizzazione solo nel 2017 sarebbero 312 gli attivisti morti. L'ultimo caso, quello più eclatante, quello di cui abbiamo sentito parlare non abbastanza sicuramente, ma che è salita alle cronache negli ultimi tempi, è quello dell'attivista brasiliana molto nota nell'ambito delle difese dell'ambiente, Mariel Franco. Mariel Franco aveva 38 anni, è stata uccisa il mese scorso, e attivista nera proveniente da Maré, la vergognosa favela che dà il benvenuto all'aeroporto di Rio de Janeiro, una favela composta da 130.000 abitanti, un luogo ai margini della legalità, ai margini del rispetto del diritto. Mariel era molto conosciuta in Brasile. Vi vorrei parlare un pochino della sua storia e di cosa è successo, del perché è stata assassinata. Da quando è nata, lei è nata e cresciuta all'interno della favela, da cui non se n'è mai voluta andare. Si è battuta per anni per la difesa dei diritti del suo popolo, ma non solo. L'identità di Mariel la poneva costantemente in rischio. Donna, nera, proveniente dalle favelas e lesbica. L'insieme, o come si suol dire, l'intersezionalità, una parola un po' complessa che però vuole proprio raccontare di come le identità sociali degli attivisti, a volte l'insieme, il sovrapporsi di queste identità sociali, mettano l'attivista ancora più in una condizione di pericolo. Ebbene, lei, come altre attiviste, donne e ambientaliste, era costantemente in pericolo di morte. Mariel è stata uccisa con 4 colpi di pistola alla testa quando ritornava da una riunione proprio organizzata per contrastare gli abusi che avvengono sulle donne all'interno della favela. Mariel più volte aveva denunciato i soprusi, la violazione dei diritti e lo stupro che avveniva in maniera sistematica all'interno delle favelas, successivamente a quella che all'operazione di militarizzazione che ha vissuto Rio de Janeiro assieme ad altre città del Brasile in occasione dei mondiali, in occasione delle Olimpiadi. Questi grandi eventi che l'amministrazione brasiliana ha voluto attrarre nel suo paese, in realtà hanno poi aperto le porte una militarizzazione sempre più capillare delle aree delle favelas. Militarizzazione foriera di morti e brutalità. Contro questo Mariella si è battuta per mesi, continuando a denunciare ininterrottamente gli abusi della polizia, una polizia che evidentemente gliel'ha fatta pagare ben cara. Prima dell'agguato, Mariella scriveva su Twitter: quante altre persone dovranno morire prima che questa guerra finisca? Ebbene, a quanto pare lei è stata la prima e sfortunatamente non sarà l'ultima. Ad ogni modo, vogliamo ricordare Mariella come ispirazione e non assolutamente non come vittima, ma anzi come fonte di ispirazione per tutti quelli che continuano a battersi e sono sempre di più per la difesa dei diritti, dei territori, delle comunità e dell'ambiente. C'è un dato che mi preme sottolineare: per quanto crescano gli omicidi legati ai difensori dei diritti e dell'ambiente, allo stesso tempo sembrano questo fenomeno non arginare la crescita ininterrotta di comitati, di volontari, di attivisti, di persone che si battono in prima linea per difendere i loro diritti. Per cui mandiamo un grande saluto a Mariella, da Roma e da Radio Onda Rossa e da Sud. Bene, allora continueremo a parlare di diritti umani dopo la prima pausa e ritorniamo tra pochi minuti qui su Radio Onda Rossa. I'm Ed eccoci di nuovo in voce con Entropia Massima sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E prima di continuare vi ricordo che la radio non campa soltanto di aria, evidentemente, e se volete sottoscrivere, contribuire per Radio Onda Rossa, ricordatevi che potete usare il conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56 00185 Roma. Potete ovviamente venirci qua a trovare in trasmissione, l'indirizzo ve l'ho già detto, e ora continuiamo, abbiamo un ospite e continuiamo la trasmissione con Assud. Allora, prima di presentare insomma la nostra ospite Lorena, vorrei un attimo introdurla. Lorena lavora per Frontline Defenders, che è una ONG che si occupa appunto dei difensori di diritti umani. L'ultimo report di Frontline Defenders, che è quello che ho introdotto poco prima, ed è quello del 2017, è particolarmente allarmante. Nel 2017 ci sono stati 312 casi di assassini di difensori dei diritti umani. Questo per quanto riguarda gli assassini, senza contare per esempio invece i casi di denunce di intimidazione, di detenzioni arbitrarie, di in ogni caso violazioni e abusi appunto sui difensori stessi. L'80% di questi casi si è sviluppato tra il Brasile, la Colombia, il Messico e le Filippine. Nel 67% dei casi, e qui insomma si capisce anche la ragione per la quale ci abbiamo tenuto così tanto a parlare di questo argomento in trasmissione, si tratta di attivisti ambientali, quindi attivisti che si battevano per la difesa dei propri territori. Molto spesso, soprattutto nei casi di qui sopra, si trattava di leader o di comunità intere indigene che si battevano contro progetti impattanti e imposti insomma dai governi centrali, da grandi multinazionali, alcune delle quali ce l'abbiamo anche in casa nostra. Progetti come poli estrattivi, come miniere, come megadighe o come infrastrutture in generale. Ora, due sono gli elementi insomma che vale la pena sottolineare soprattutto. La prima è l'assoluta mancanza di protezione per chi si difende, per chi prova a difendere i propri territori e per chi prova a difendere quindi i beni comuni. Nell'84% dei casi, infatti, gli attivisti ammazzati erano già stati vittime di minacce. Questo vuol dire che anche se si sapeva che erano in pericolo di vita, nessuno ha fatto nulla per evitare che venissero ammazzati. L'altro dato invece che è particolarmente rilevante, sul quale vorremmo insistere, è quello dell'impunità di questo tipo di crimine, per tutte le ragioni che sottolineavamo prima e per chissà quante altre, magari Lorena sarà molto più brava di noi a illustrarle. Nel 12% dei casi soltanto ci sono stati dei sospettati che sono stati arrestati. Per il resto invece parliamo praticamente della stragrande maggioranza dei casi in cui i crimini sono rimasti impuniti. Chiaramente ci sono moltissime modalità nelle quali interpretiamo l'abuso verso i difensori dei diritti umani, ma anche qui sarà Lorena molto più brava di noi a illustrarle. Quello che preme dire è che molto spesso questo avviene in regimi di totale legalità, nel senso, in moltissimi stati proprio il decretare delle leggi antiterrorismo particolarmente dure, tanto quanto il decretare uno stato d'emergenza, comporta una serie di violazioni dei diritti umani che praticamente sono a cielo aperto e che non possono essere denunciati perché non ci sono strumenti all'interno dello Stato stesso per difendere chi ne è vittima. Questo è quello che per esempio sta avvenendo in Turchia, che dalla metà del 2016 vede lo stato d'emergenza introdotto da Erdogan violare costantemente, sistematicamente le vite cioè le vite nel senso della violare, nel senso di abusare sui diritti dei difensori di diritti umani. Questo è quello che accade quindi in Turchia, ma anche in Egitto, in moltissimi stati dell'America del Sud, in Cina, in Russia e nelle Filippine. In Europa, per esempio, questo accade in particolare verso i difensori dei diritti dei migranti. Ci sono moltissimi stati in cui vengono propriamente criminalizzati e vengono associati a coloro i quali parlano con i trafficanti di uomini. Questo accade per esempio in Croazia, questo accade in Francia, questo accade in Grecia, è accaduto anche in Italia, ce lo ricordiamo tutti, in Macedonia, Cipro, in Serbia, in Turchia e in Ucraina. Ora io eviterei insomma di continuare a parlare io del lavoro di Lorena, per cui mi farebbe piacere riuscire a sentirla. Ci senti Lorena? Sì. Perfetto. Ci vuoi raccontare un po' la vostra realtà, la vostra ONG, il vostro lavoro? Sì, grazie Rita per l'introduzione e buonasera a tutte e tutti. Sì, appunto, come accennavi prima, Frontline Defenders è un'organizzazione che ha sede a Dublino e si occupa di di sostenere i difensori e le difensore dei diritti umani in tutto il mondo. Nel report che abbiamo pubblicato quest'anno, che racconta appunto la situazione nel 2017, emerge un quadro assolutamente allarmante. Uno dei dati che emerge dal report è che una delle strategie più utilizzate è quella della criminalizzazione. E appunto, come accennavi prima, è una tattica che viene assolutamente usata in tutto il mondo. Viene utilizzata non solo in posti come la Turchia e l'Egitto, dove ci aspettiamo questa tattica viene utilizzata, ma anche sempre di più pure nella democratica Europa. Viene utilizzata anche qua in Italia, poi, come ci racconterà più tardi Francesco, viene utilizzata contro chi salva vite in mare o contro gli attivisti dei cantieri No Tap. Nel mondo, appunto, questa è una delle tattiche assolutamente più usate, perché è, diciamo, anche quella più economica e più semplice per le autorità. Viene utilizzata infatti per soffocare il dissenso, per ostacolare il lavoro degli attivisti e soprattutto per screditarli. Infatti, quando un attivista viene accusato di essere un terrorista, è il modo più semplice per il governo di dire quello che fa non è legittimo, non sta difendendo i diritti umani, ma lui o lei è un nemico dello Stato. Ed è quindi appunto un'accusa, i processi sono basati su accuse assolutamente false e infondate. E purtroppo poi sono processi, quelli contro gli attivisti e le attiviste, che si protraggono davvero per tantissimi anni, quindi sono anche molto lunghi, molto costosi e spesso sono assolutamente irregolari. Quindi in alcuni casi viene negata la possibilità di avere un avvocato o un'avvocata, e viene negata la possibilità di avere giustizia in modo equo, in modo giusto. E quindi appunto sono assolutamente dei casi di cui con Frontline ci occupiamo davvero da vicino, ad esempio sostenendo gli attivisti, pagandone le spese legali anche per affrontare questi lunghi processi. Non so se è caduta la linea o... No, assolutamente. Ho sentito. Anzi, ti volevo assolutamente ringraziare. A questo proposito volevo ricordare uno degli esempi più recenti di criminalizzazione che esemplifica davvero un po' la situazione che si è venuta a creare negli ultimi anni, che è il processo di criminalizzazione contro addirittura una relatrice speciale dell'ONU, Vicky Tauli Corput. Vicky è una relatrice che si occupa dei diritti dei popoli indigeni nelle Filippine. E nelle Filippine, dove il governo Duterte negli ultimi anni sta davvero criminalizzando, incarcerando e anche uccidendo tutti gli attivisti e le attiviste. Sì, la storia di Vicky è particolarmente, particolarmente forte. Io ero all'incontro che è stato organizzato a Roma. Ricordo, ci vuoi parlare un po'? Le testimonianze che ha lasciato, insomma, sono particolarmente rilevanti da questo punto di vista. Sì, esatto. Vicky Tauli Corput era la settimana scorsa in Italia, è stata ospite a Roma di un evento organizzato dalla rete In Difesa di per i diritti umani e chi le difende, e poi è stata due giorni dopo a Milano in occasione del Festival dei diritti umani. E appunto Vicky è una delle tante attiviste e attivisti indigeni che nelle Filippine sono stati accusati di avere un legame con il Partito Comunista delle Filippine e con il New People's Army, il braccio armato del partito che il governo filippino definisce come organizzazioni terroriste. E quindi il nome Vicky, insieme a quello di almeno una decina di altri in questa lista. Non ti sentiamo molto bene? Ci racconta Vicky che il suo nome è stato inserito in questa lista nera di presunti terroristi per varie ragioni. Aspetta, Lorena, ci senti? Tu ci senti bene? Sì, mi sento. Perché la linea è un po' disturbata, non so se puoi parlare più vicino. Lorena? Adesso si sente meglio. Ok, adesso è perfetto, grazie. Appunto, dicevo, il Vicky Tauli Corput, relatrice speciale dei diritti dei popoli indigeni, si raccontava che il suo nome è stato inserito in una lista nera di presunti terroristi, innanzitutto perché lei è una donna. Il governo di Duterte delle Filippine è appunto un governo misogino. È stata inserita in questa lista inoltre perché è un'indigena e il governo si sta davvero scagliando contro tutte le minoranze indigene delle Filippine, e poi perché lei è una massima carica delle Nazioni Unite e le Nazioni Unite hanno più volte condannato il governo di Duterte per le violazioni dei diritti umani di cui si è reso complice e che ha commesso. E diceva Vicky che essere inserita in questa lista nera è pericolosa per più punti di vista, non solo perché appunto rischia il carcere, rischia o di non poter più tornare nelle Filippine, ma soprattutto perché scrivere il suo nome in questa lista nera significa poi condannarla a ulteriori minacce, perché gli squadroni della morte e le milizie paramilitari che operano nel paese potrebbero prendere i nomi da questa lista nera e sentirsi quasi autorizzati, legittimati nel poi attaccare e inseguire tutti i difensori dei diritti umani che sono inseriti in questa lista. Ed è in questo, fra l'altro, una tattica che abbiamo visto spesso replicata in molti paesi. Per tutti i difensori e le difensore verso cui c'è un procedimento criminale in corso, questi difensori sono ovviamente sottoposti a ulteriori minacce, perché vengono descritti in tutti i media, in tutti, insomma, anche nell'opinione pubblica, vengono descritti assolutamente come terroristi, come minacce per lo Stato. E quindi siamo davvero preoccupati per la situazione non solo di Vicky, ma anche di tutti gli altri attivisti e attiviste delle Filippine che sono stati appunto inclusi in questa lista. Un vero e proprio metodo fascista nel senso storico del termine, quindi. Questo della lista nera. Dicevo, è un vero e proprio metodo fascista nel senso storico del termine, l'utilizzo di una lista nera, esatto, di nominativi da depennare in un certo senso. Sì, esatto, anche Vicky ha usato proprio questa parola fascista per definire l'attacco che appunto non è solo nei suoi confronti, ma è nei confronti davvero di chiunque difende i diritti umani, perché sono attacchi di tipo fascista anche perché hanno un intento davvero intimidatorio, vogliono far vedere guardate cosa succede a chi osa alzare la voce e lottare per i diritti di tutte. E fra l'altro diceva prima Rita, appunto si parlava di impunità, paradossalmente il sistema di giustizia viene completamente rivoltato, quindi se da una parte viene usato per criminalizzare, per accusare i difensori dei diritti umani che fanno un lavoro davvero legittimo e pacifico, e quello stesso sistema di giustizia non viene invece usato per cercare i colpevoli degli attacchi ai difensori e alle difensore. Anzi, ci sono stati alcuni casi gravissimi, ad esempio in Guatemala, dove un attivista, Enrique Choc, che sta fra l'altro cercando giustizia per il marito ucciso circa 10 anni fa, è stato ucciso perché era un attivista che si opponeva a una miniera di proprietà canadese. E Angelica, sua moglie, che appunto è rimasta vedova, ora sta cercando giustizia, però ovviamente in Guatemala è davvero difficile ottenere giustizia per un caso del genere in cui l'assassino del marito era un membro della sicurezza della miniera canadese contro cui lei si opponeva. E appunto paradossalmente, mentre lei chiedeva giustizia in una corte in cui appunto presentava tutte le prove di chi era stato l'omicida di sua figlia, lei è stata accusata, denunciata per diffamazione. Quindi si tratta di una situazione davvero paradossale. Sì, i casi sono sfortunatamente moltissimi. Quello di Vicky non è il solo. E Vicky, fortunatamente, come diceva anche nell'incontro, riesce a godere dell'immunità garantitagli dall'ONU grazie all'importante lavoro che riesce a svolgere, ma sfortunatamente non la maggior parte degli attivisti, tanto più facenti parte di popolazioni indigene, non godono di nessuna forma di protezione. Esatto, poi un altro insomma ostacolo per le popolazioni indigene e per quegli attivisti che operano davvero a livello popolare e in area rurale è che spesso c'è anche l'ostacolo linguistico, non gli viene concesso nelle corti, dei tribunali, di poter parlare nella propria lingua. Le lingue indigene non sempre vengono tradotte, non sempre gli viene data la possibilità di esercitare il proprio diritto. Ad esempio Angelica, che è appunto una indigena, lei è stata costretta ad imparare lo spagnolo per difendersi in corte. Però questo è un diritto, insomma, che dovrebbe essere sacrosanto, quello di permettere ai difensori e alle difensore indigene di poter chiedere giustizia e chiederla nella loro lingua, come segno di rispetto per la loro cultura, appunto. Chiaro, chiaro. Va bene, Lorena, io ti ringrazio tantissimo per la tua testimonianza, per il lavoro che fai, per il lavoro di Frontline Defenders. Credo che ci sia sempre sfortunatamente più bisogno di associazioni e persone come voi. Grazie a voi, Noven. Per cui ci sentiamo presto, spero. Grazie ancora da parte di Assud e di Radio Onda Rossa. Grazie, buona serata a tutte. Buona serata. Tutti. Arrivederci, grazie. Allora, grazie a Lorena. Adesso mettiamo un'altra pausa musicale e poi continueremo la nostra trasmissione. Eccoci di nuovo su Radio Onda Rossa, sono Agostino di Assud a parlare della criminalizzazione degli attivisti nella difesa dei diritti e dell'ambiente. Prima di focalizzarci su quanto avviene in Italia, su cosa succede rispetto nel nostro paese, volevo raccontarvi brevemente la storia e di tre figure importanti nell'ambito dell'attivismo ambientale. Prima abbiamo raccontato la storia di Mariel Franco, l'attivista brasiliana recentemente uccisa per via delle sue critiche alla brutalità della polizia nelle favelas. Ora vorrei parlarvi molto brevemente di Chico Mendes, attivista brasiliano morto il 22 dicembre dell'88, di Kensar Wiwa, attivista nigeriano morto invece nel 95, e Berta Caceres, probabilmente più conosciuta, che è morta esattamente 2 anni fa, nel marzo del 2016. Chico Mendes si è battuto per anni e anni. Vorrei ricordare, Chico Mendes era un semiguero, ossia raccoglieva il lattice dal caucciù per formare la gomma. Lo faceva in una maniera sostenibile, era parte delle comunità che vivono l'Amazzonia brasiliana, e si è battuto per tutta una vita contro i grandi progetti agroalimentari che giornalmente devastano l'Amazzonia. È stato uno dei primi, in realtà, a portare a livello mondiale la drammatica questione dell'Amazzonia, sfortunatamente a costo della sua vita. Chico Mendes fu infatti ucciso, come dicevamo, nell'88, per via delle sue battaglie, per denunciare l'esilio forzato dei contadini, per denunciare l'esproprio delle terre degli indigeni, le conseguenze e i danni ecologici devastanti a danno della sua terra e delle comunità che le vivono. Grazie a Chico Mendes, ora tutti noi sappiamo di cosa succede in Amazzonia e lanciamo un saluto a lui. Un'altra figura importante è stata Kensar Wiwa, leader indigeno del popolo degli Ogoni. Lui faceva parte di una comunità che viveva nel delta del Niger, uno dei fiumi più grandi del mondo. Da quando si è scoperto che proprio il delta del Niger è una delle zone con più alta concentrazione di petrolio, tutta l'area è stata soggetta di un saccheggio ininterrotto, è stata vittima dell'attacco indiscriminato, dello sfruttamento di compagnie come Eni, Chevron, Shell, solo per citarne alcune. Uno dei meriti di Kensar Wiwa è stato quello di formare il Movimento per la Sopravvivenza del Popolo Ogoni, un movimento nel 1990, un movimento grazie al quale sono stati possibili molte vittorie legate alla difesa dell'ambiente e alla difesa dell'identità, della cultura e dei diritti del popolo indigeno Ogoni in Nigeria. La terza figura di cui parlo brevemente è Berta Caceres. Berta Caceres, un'attivista indigena della popolazione Lenca in Honduras, per anni si è battuta per difendere l'ambiente, per difendere la sua comunità, contro la costruzione di una diga, di un impianto idroelettrico gigante che avrebbe devastato non solo il fiume Guajir, di cui considerato sacro per la popolazione Lenca, di cui lei era parte, ma anche avrebbe anche causato dei disastri ambientali di portata inconsiderabile, oltre a, come al solito, come da triste copione, l'espulsione delle popolazioni indigene presenti lì e la distruzione basicamente della loro identità, della loro cultura. Berta Caceres, vogliamo ricordare che il progetto si chiama Progetto Aguasarca, è un progetto ancora esistente, si sta ancora cercando di realizzare questa diga e ancora i figli e i compagni di Berta stanno lottando per fermare questo, uno dei mega progetti giganti di cui è vittima non solo l'America Latina, ma in genere tutti i paesi in cosiddetta via di sviluppo, se questo poi è lo sviluppo di cui parliamo. Berta Caceres è stata uccisa e assieme a lei sono stati uccisi altri attivisti nello stesso giorno, e vogliamo ricordare che proprio il mese scorso è stato arrestato il dirigente della DESA, l'impresa di elettricità nazionale dell'Honduras, proprio incolpato di essere il mandante materiale e il responsabile della morte di Berta. Queste tre storie sono storie molto significative per una ragione o per l'altra. Grazie o più che grazie, dopo la morte di Berta, il governo honduregno ha ricevuto notevoli pressioni sia a livello internazionale che a livello politico, a livello comunicativo, che hanno portato ad un'indagine un po' più seria di quelle che normalmente avvengono in queste circostanze e alla cattura dei responsabili reali dell'assassinio. Nonostante questo, il progetto non si è fermato. E vogliamo ricordare che coinvolti all'interno di questa diga, come all'interno dei tanti megaprogetti che generano questo tipo di conflitto, vi sono banche di investimento europee, banche dello sviluppo europeo. Tutti questi programmi che noi chiamiamo di sviluppo sono in genere supportati da banche che in fondo non fanno altro che aprire le porte alle imprese occidentali all'interno di paesi in cosiddetta via di sviluppo. Una prospettiva critica sullo sviluppo penso sia necessaria ogni volta che crediamo di operare in un paese o di portare modernità e progresso in un paese, e in fondo non portiamo che morti o morte il più delle volte. Vi ho voluto parlare di queste tre storie perché sono particolarmente importanti, ma sfortunatamente, come penso abbiamo capito dalla giornata di oggi, sono tanti e tante le attiviste che muoiono quasi quotidianamente e di cui spesso non si sa nulla. Vorrei ora passare ad un argomento lievemente diverso e raccontarvi di cosa si fa, non raccontarvi solamente di questi eventi drammatici, ma raccontarvi anche di come si organizza, di come ci organizziamo, anzi, delle iniziative a difesa dei difensori dei diritti, sempre più necessarie e fortunatamente sempre più diffuse. Vi parlo brevemente della rete In Difesa di cui Franco Martone è il portavoce. È una rete che riunisce oltre 30 organizzazioni italiane attive su tematiche quali diritti umani, ambiente, solidarietà internazionale, diritto dei lavoratori, così come la libertà di stampa. La rete In Difesa di ha organizzato l'evento dalla parte dei popoli indigeni, di cui ci parlava prima Lorena. E per concludere, ha lanciato questo evento, quantomeno si è fatto portavoce di questa iniziativa molto importante chiamata Trento Città Rifugio. Vogliamo menzionarla perché è uno di quei buoni esempi che andrebbero diffusi e andrebbero moltiplicati. Trento Città Rifugio prende spunto da Sheltered Cities, un'iniziativa olandese molto simile, dove si prevede di istituire dei meccanismi di accoglienza e protezione di difensori. In questo caso si chiama temporary relocation, è una misura che dà la possibilità a persone in pericolo di vita nei loro paesi di lasciare il paese e la condizione di rischio in cui si trovano per essere ospitati e supportati per periodi in genere di 3 mesi, 1 anno, prima di poter finalmente ritornare nei loro paesi. Vogliamo segnalare Trento, che grazie a una delibera approvata dal Consiglio Comunale il gennaio di quest'anno, si è proposta come città rifugio e ci auguriamo che ce ne siano sempre di più. Sì, allora, Trento come città rifugio, ma in realtà il tema delle città rifugio rientra in un ragionamento molto più ampio che adesso noi vogliamo portare in chiusura di puntata. Intanto abbiamo già in linea con noi Silvia Ferrante. Silvia la presenterò tra pochissimo e vorrei tanto che ci raccontasse la sua storia. E in particolare abbiamo voluto intervistare Silvia e mi ricollego proprio a quello che stava dicendo Agostino sulle città rifugio per i difensori dei diritti umani come Trento, intanto introducendo il tema, cioè all'inizio del 2017 la Camera dei Deputati accoglie e approva la risoluzione ONU sui difensori dei diritti umani, questo sotto enormi pressioni della società civile e di tantissime organizzazioni. Questo accade in particolare a un mese dalle celebrazioni del primo anniversario della morte di Berta Cáceres. Questo accade quindi in un contesto in cui sembra che anche il nostro governo si stia impegnando. E nell'ottobre scorso, per esempio, cioè nell'ottobre precedente, la coalizione di associazioni che si stava spendendo sul tema per creare appunto le condizioni per approvare la risoluzione anche in Italia scrive una lettera a Gentiloni nella quale racconta al premier, all'allora premier, quali sono le condizioni dei difensori dei diritti umani in tutto il mondo. Viene organizzato un convegno internazionale, anche i membri dell'ONG COSPE partecipano e raccontano in particolare qual è la drammatica situazione in Afghanistan, e il nostro governo pare sensibilizzarsi alla questione dei difensori dei diritti umani. Vengono in particolare individuati due strumenti: i visti temporanei per i difensori per garantire loro asilo dai propri paesi e appunto le città rifugio, e questo è quello che sulla carta è avvenuto in Italia. Nel frattempo però nel nostro paese chi conosce le comunità che si battono per difendere i territori sa benissimo che molto spesso si trovano ad affrontare situazioni completamente diverse, situazioni che io vorrei appunto commentare con Silvia. Silvia, mi senti? Sì, ti sento. Ciao. Buonasera. Ciao. Grazie per avermi chiamato. Figurati, la tua storia secondo noi non è mai raccontata abbastanza, quindi se vuoi cominciamo da quello, così siamo sicuri di dargli tutto il tempo possibile, perché purtroppo abbiamo dei tempi molto serrati. Se poi ci avanza tempo possiamo chiacchierarne, però noi ci teniamo molto innanzitutto che tu possa raccontarla. Ok, sì, grazie. E allora inizio a metà della storia, nel senso che nel 2016, fine 2015, mi cominciano ad arrivare a casa tantissime buste verdi, con le quali intendo una serie di citazioni in giudizio, perché da quello che dice una grande multinazionale italiana, che è la Terna, cioè l'ente diciamo che si occupa del trasporto dell'energia elettrica e quindi delle reti di trasmissione e di trasporto di questa energia, sostiene che sono stata violenta e che ho impedito la realizzazione di una grande opera prevista in Abruzzo. E questa grande opera si chiama elettrodotto a 380.000 volt Villanova Gissi, ed è una di quelle tante infrastrutture, come ne vediamo tantissime nel nostro territorio in Italia, che vengono in qualche modo imposte dall'alto con la motivazione di una necessità strategica e fabbisogno strategico nazionale. E questo dal mio punto di vista significa calpestare completamente la possibilità di autodeterminarsi di un territorio, perché qualcuno deve deturparlo per farci profitto. E cosa succede? Cominciano ad arrivare queste buste verdi perché insieme a tanta altra gente, tra le quali dei proprietari di terreni che dovevano essere espropriati per la realizzazione di quest'opera, abbiamo fatto tutta una serie di manifestazioni, quindi eravamo in loco quando i funzionari di Terna venivano sui terreni e dicevano e dichiaravano che per un decreto di esproprio quel terreno era loro e quindi non si poteva fare nulla. Eravamo lì a testimoniare quello che accadeva e a fare in modo anche che invece i proprietari potessero esercitare un proprio diritto, che è quello di opporsi all'esproprio, anche nel momento in cui, nella data che viene fissata da questo decreto, si dice che arriva qualcuno a espropriartelo, insomma. Questo è in soldoni, quindi 24 citazioni in giudizio vuol dire che per 24 volte vengo accusata di, oltre a essere violenta, di aver interrotto questo servizio pubblico, come loro lo chiamano, e vengo portata in tribunale, e ci vado tranquillamente perché non avevo niente da nascondere, e anzi per me poteva essere una situazione in cui poter invece far emergere le cose assurde che sono accadute in quelle giornate, quando veniamo a sapere che i funzionari dicevano anche delle bugie alle persone, oppure dicevano che non potevano fare niente, quando invece esiste quella che si chiama la terna dei tecnici, ossia andare a porre le motivazioni per cui quel misero indennizzo che veniva proposto per i loro terreni era insomma per poter fare questa opposizione. E ci sono state raccontate storie assurde di gente che ha firmato i decreti di esproprio e non era neanche in grado di riconoscere i propri familiari. Ci hanno raccontato e abbiamo visto i funzionari che correvano da una parte all'altra, mettevano un piede su un terreno e dicevano che l'esproprio era stato fatto, mentre un altro parlava con il proprietario. Insomma, c'erano delle situazioni non molto carine. Di tutta Ma risposta. Tutto questo è documentato, Silvia? Abbiamo modo anche per mostrarlo? Come no, certo, sì, ci sono tantissimi video, ci sono tanti articoli di giornale, ci sono servizi anche televisivi, perché poi insomma la notizia che una mamma, perché poi fondamentalmente sono una cittadina qualunque, insomma, che ha cercato di difendere il proprio diritto di far crescere il figlio in una in una situazione un po' sana, direi, visto che un pilone di questo grande elettrodotto ci veniva fatto a 80 metri da casa. E quindi insomma hanno colpito fortemente questa donna, che sì, io sono un'attivista perché comunque provo con quello che posso e con quello che sono di portare avanti i diritti, insomma, di tutti, rispetto alla possibilità di avere un mondo sano fondamentalmente. Qui in Abruzzo da un po' di tempo, da quando è stato decretato che fosse un distretto minerario, ci vengono proposte una dopo l'altro delle opere assurde che vanno dall'estrazione del petrolio a grandi hub del gas, a grandi elettrodotti, insomma tantissime opere che in qualche modo cozzano con quella che è la visione dell'Abruzzo regione verde e polmone verde d'Europa. Rido per non piangere, però. E comunque sì, c'è tutto documentato, poi se volete magari nei prossimi giorni posso anche fornire qualcosa di più. Va bene, no, a noi interessava, beh, intanto dirlo a chi ci sta ascoltando, perché se qualcuno appunto volesse approfondire potesse avere dei riferimenti. E niente, noi abbiamo voluto intervistarti, in realtà non so se tu hai, se hai avuto modo di ascoltare la trasmissione fino ad ora, perché questa era una trasmissione dedicata agli attivisti e difensori dei diritti umani minacciati o in pericolo di vita, se non addirittura ammazzati in giro per il mondo. Dopo la quale insomma abbiamo voluto fare un punto su quello che accadeva in Italia, su quelli che sono gli impegni delle istituzioni e su come a volte questi impegni risultino essere quantomeno ipocriti rispetto a quello che accade già sui territori. Quindi ci piaceva che qualcuno che poi chiaramente non ha lo stesso livello di chi vive nel sud del mondo e che spesso paga con la vita il proprio impegno, però che qualcuno che comunque ha dovuto subire lo scotto delle proprie idee, di ciò che ha provato a difendere, raccontasse che anche qui non è tutto esattamente rose e fiori. No, assolutamente, anzi sì, in questo senso me la sono vissuta tutta, come me anche altre persone, ma l'abbiamo visto anche in Valsusa, dove ci sono state accuse di terrorismo perché si difendeva il proprio territorio, quindi lo viviamo, esatto, con forme diverse. Anche in Salento con i DASPO ai NOTAP, anche a Napoli con la criminalizzazione dei movimenti contro le discariche. Io purtroppo sono costretta, Silvia, a chiudere perché siamo andati più in là con i tempi, pensavamo di avere poco da dire, invece abbiamo parlato più di quanto avremmo dovuto, e quindi ti ringrazio intanto per aver portato la tua testimonianza e ti saluto, poi ci sentiamo presto insomma con Assud. Va bene, grazie a voi della possibilità. Ciao. Buon proseguimento, ciao. Ok, questo era l'ultimo intervento e quindi l'appuntamento è per la prossima settimana, per lunedì dalle 8:15 circa con Entropia Massima. Non so se Rita vuole chiudere. No, anche noi volevamo ringraziare insomma per lo spazio e salutare e dare appuntamento sia per la prossima trasmissione di Entropia Massima che invece per la prossima con Assud, che sarà tra un mese. Ciao. Ciao, e allora buonasera a tutti e a tutte, la sigla e poi la consueta programmazione di Radio Onda Rossa.